Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. So 1-0 up. E ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Ziegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci e buona domenica alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Radio 24. Oggi alla finestra sul cortile parleremo di città. Città distrutte, città che scompaiono, ma anche città che invecchiano, luoghi, comunità umane che si trasformano, diventano irriconoscibili. A volte è una catastrofe naturale, come un terremoto, a devastare una città, un paese, a cambiarne il volto in maniera definitiva, come è successo ad Haiti. In altri casi sono i cicli dell'economia, la crisi o la riconversione di un settore industriale, lo spopolamento, l'emigrazione dei giovani, come è successo per esempio in una città tedesca della Sassonia. Di questo ed altro parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il menù di oggi. Germania è un paese per vecchi. La città di Chemnitz è la futura capitale europea della terza età. India. Il sitar suona sul web. Sempre più giovani musicisti si esercitano online. Spagna. Visti dagli altri. Riccardo Muti alla scoperta dell'America. Haiti. Quale futuro dopo la catastrofe? Inghilterra. Beirut uguale caos. Perché nel linguaggio quotidiano la capitale libanese è ancora il simbolo della confusione. Una città con appartamenti spaziosi a buonissimo prezzo, un'industria automobilistica con delle buone prospettive, imprenditori dinamici. Insomma, Chemnitz, una città sassone, tedesca, della Germania dell'Est, ha quasi tutto, le mancano soltanto gli abitanti. Da quando è caduto il muro di Berlino, questa cittadina ha perso 80.000 abitanti e oggi i suoi 240.000 cittadini hanno un'età media di 47 anni, tra le più alte d'Europa. Ecco perché l'Ufficio Statistico Europeo prevede che entro 20 anni Chemnitz sia destinata a vincere il titolo, il primato, un primato ben poco invidiabile di capitale europea dei pensionati e degli anziani. È un articolo della Süddeutsche Zeitung che ci segnala il nostro Alessandro Melazzini e che parla appunto del caso di questa città sassone. Una prospettiva evidentemente questa di Chemnitz che non riempie di gioia l'amministrazione comunale, ma dato che la tendenza dei giovani a lasciare le regioni dell'est tedesco non sembra arrestarsi, a Chemnitz cominciano a farsene una ragione, a progettare proprio il futuro su misura per una popolazione che invecchia, per esempio anche attraverso un rinnovamento delle fabbriche automobilistiche, dei sistemi di lavorazione, ma anche degli stessi modelli di auto per renderli più adatti a dei lavoratori dai capelli grigi. Ecco, ma proprio per parlare, insomma, di questi temi della crisi industriale, della trasformazione della società europea e anche italiana, abbiamo al telefono un ospite che salutiamo, Giuliano Montaldo, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Che tutti conosciamo, insomma, uno dei grandi nomi del cinema italiano, in questo momento è impegnato proprio nella scrittura del suo nuovo film che affronterà proprio il tema della crisi economica, avrà per titolo sì, L'industriale. Un momento molto difficile, il titolo è L'industriale, l'ho scritto insieme a Andrea Purgatori ed è una storia che riguarda proprio questo momento, non è purtroppo come il dramma della città tedesca, sono anche i giovani che rimangono senza lavoro da noi. Certo. E quindi è un'avventura di un industriale che si trova in questo momento drammatico a lottare con le banche, a lottare per la sopravvivenza, a lottare in tutti i modi, anche al limite, ecco, diciamo così. Ecco, e dov'è che avete scelto di girare? A Torino, che è una città, tanto perché c'è una film commission straordinaria che ci aiuterà e poi perché è un territorio dove insomma, ci sono dei problemi, che una città che cerca di scuotersi sempre, di essere, come dire, molto non si arrende, però la crisi è inevitabile. Ecco, è la mia città, quindi non parliamone male. Lo so, è una città dove io sono già ci vado volentieri, ho già girato, pensa, i Demoni di San Pietroburgo, in gran parte l'ho girato a Torino, perché come sai i grandi architetti, certo, italiani hanno costruito e Torino e San Pietroburgo, quindi entravo in un palazzo e mi trovavo a Torino, uscivo era San Pietroburgo. Il barocco piemontese, il barocco già russo. Trionfato ovunque. Esatto. No, sentivo da te questa notizia di quella città tedesca, mi ha molto colpito. Io mi ricordo di essere passato da quelle parti proprio subito dopo la caduta del muro, e mi sono reso conto che la fuga era anche ragazzi che avevano studiato magari benissimo fisica nucleare e preferivano andare a fare i camerieri nella Germania Ovest piuttosto che stare lì, e c'era questo desiderio proprio di, certo, entrare nel mondo, e quindi inevitabile che questa fuga continui. Ma secondo lei quali registi hanno raccontato meglio le trasformazioni sociali dell'Europa degli ultimi decenni, se volessimo fare dei nomi? Mi sembra che i tedeschi siano abbastanza attenti proprio loro. In realtà io credo che proprio a fare i conti, i film sul problema degli operai, della classe operaia o dell'industriale, cioè non è che siano molti. Direi che c'è quasi un pudore da parte della gente di cinema di trattare dei temi per paura, come dire, di sbagliarli in qualche modo, quasi per un eccesso, un rispetto che diventa straordinario, se vogliamo, ma però poi non diventa un racconto. Beh, noi possiamo ricordare nella storia del cinema italiano, per esempio, non so, La classe operaia va in paradiso di Petri. Ma però, attenzione, si deve raccontare La classe operaia, i compagni di Monicelli, certo, si può raccontare addirittura le origini, insomma, c'è un operaio disoccupato e Maggiorani in altre biciclette, però si contano alla fine su due mani, diciamo. Perché non sono molti di più i film che hanno affrontato proprio questo tema, questo problema. Ci sono Sordi, per esempio, ha fatto tutto, secondo me, ma non l'operaio, non me lo ricordo. È l'unico mestiere che non ha fatto, il medico della mutua. Dal dentista al presentatore. Dal ministro all'esattore, ma mi pare di non averlo visto in tuta. Questo non so bene, credo che sia pudore, ma può darsi che mi sbagli. Ecco, tra i registi giovani italiani, beh, c'è stato quel caso, insomma, di qualche anno fa, insomma, della signorina F. Che è un La signorina F, sì, mi pare che sia di 3 o 4 anni fa. Lo vidi proprio a Torino, al Festival del Cinema di Torino. Ma insomma anche quello, poi ci sono invece dei buoni lavori fatti col materiale repertorio, cioè tutto quello che riguarda per esempio come documentari intorno ai drammi della fabbrica, questa incredibile guerra orrenda che viviamo con tutte queste morti cosiddette bianche, non si capisce perché si chiamano bianche, che meriterebbero soprattutto un'attenzione non soltanto al momento dell'evento, io penso alle famiglie, certo, che rimangono, ma soprattutto, esatto, e soprattutto sul piano della dire, ci dimentichiamo che ci sono dei figli, delle mogli, che c'è un buco che momento delle lacrime e poi il momento dell'oblio. Ma è molto difficile trasformare in fiction, insomma, dei drammi così reali che ci circondano. Sì, ma questa è una guerra, altro che Afghanistan, che questa è una guerra terribile che si combatte tutti i giorni. Tutti i giorni, e non si riesce a capire come si può vincere. E noi ringraziamo Giuliano Montaldo, buona domenica e a presto. Grazie con tutto il cuore. E adesso andiamo in India, sulle pagine di Outlook India, Shruti Ravindran ci parla della musica tradizionale indiana che approda sul web e racconta la storia di un dodicenne Isha che è un indiano, figlio di emigrati indiani in America e che vive in un sobborgo del New Jersey e che dopo aver giocato a basket ritorna a casa, si collega a Skype e impara la musica da un violinista che sta in India, dall'altra parte del mondo, e così impara a suonare gli strumenti tradizionali indiani come il sitar. La musica indiana, nella musica indiana tradizionale, registrare è un tabù. Adesso questo tabù viene superato in una realtà globalizzata e tecnologica e le giovani generazioni imparano a suonare gli strumenti antichi attraverso le nuove tecnologie. Insomma, se in Italia domina il televoto, gli indiani scoprono il telesuono. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica sulle eccellenze italiane all'estero ci porta questa domenica in America e precisamente a New York, dove il nostro Riccardo Muti ha debuttato al Metropolitan Opera House sabato 23 febbraio con L'Attila di Verdi. Grandi applausi per il maestro italiano, 69enne, e fischi invece per i costumi di Prada e anche per le scene dei celebri architetti svizzeri Herzog e Meron. Senza appello il critico dell'Associated Press, che ha scritto: Attila è una pietra miliare nella storia del Met, ma è meglio seguirlo con orecchie spalancate e occhi chiusi. La finestra sul cortile. Avrete riconosciuto le note della celebre canzone dei Rem, Everybody Hurts, che è stata riproposta in un super singolo per beneficenza per aiutare la popolazione di Haiti colpita dal terremoto, un progetto a cui hanno partecipato 21 artisti di fama internazionale, tra cui Leona Lewis, Rod Stewart, Bon Jovi, Mariah Carey, Susan Boyle e altri, e di cui appunto vi abbiamo fatto ascoltare un breve brano. E proprio della tragedia di Haiti e del futuro che attende questo disgraziato, sventurato paese, parla il poeta haitiano René Depestre sul settimanale francese Nouvel Observateur. Il suo articolo ha un titolo che già preannuncia qualche cosa, uno sguardo in qualche maniera nuovo su questa immane tragedia. Difatti è intitolato Réinventer Haïti, reinventare Haïti. Quello che scrive Depestre è che proprio la tragedia del sisma, che ha provocato centinaia di migliaia di morti, può rappresentare l'occasione per questo paese per rinascere e reinventarsi una nuova identità e un nuovo ruolo nel mondo. Scrive Depestre che fin dai tempi, insomma, della sua indipendenza, il paese di Haiti, insomma, è stato connotato da un errore originario, una specie di orgoglio del colore della pelle, malinteso, quella che lui chiama negritude du droit, una negritudine del diritto, che portò addirittura nel 1825 il presidente haitiano Boyer ad accettare l'offerta del re Carlo X di indennizzare gli antichi coloni e proprietari di schiavi, quasi come per regolare un debito per avere l'indipendenza. Ecco, ma rispetto a questo suo passato che ha segnato nei secoli la storia e le sventure, insomma, di questo paese poverissimo, la tragedia del sisma e la mobilitazione che questo ha generato a livello internazionale può rappresentare invece proprio un'occasione di rilancio, perché la società civile internazionale, come scrive René Depestre, fa affluire una grande quantità di aiuti, c'è un grande sforzo umanitario a livello internazionale, e questo può essere sfruttato proprio dai governanti di Haiti per reinventare il ruolo del paese. Ma quali sono le opzioni che si presentano per il futuro di Haiti? Il poeta ne elenca almeno quattro. Una, la federazione con la Repubblica Dominicana, un'altra è con le antiche colonie anglofone dei Caraibi come la Giamaica, le Barbados, Trinità e Tobago. Un'altra ancora è quella di federarsi con le Antille di lingua francese, oppure addirittura aderire agli Stati Uniti come sul modello di Porto Rico. Tuttavia, tutte queste varie opzioni hanno dei limiti e delle difficoltà per essere realizzate. Stiamo parlando di scenari utopici. Quello che veramente si augura Depestre è che in realtà Haiti possa diventare un'esperienza pilota, un laboratorio, grazie all'aiuto internazionale e al ruolo dell'America di Obama. Ma intanto ci ha raggiunto al telefono un ospite che salutiamo e ringraziamo di essere qui con noi. Buongiorno e buona domenica, Maria Chiara Rotti. Buongiorno a voi. E Maria Chiara Rotti è stata la prima volontaria a partire in missione con la Fondazione Francesca Rava NPH Italia, poi spiegheremo che cosa vuol dire NPH. È appena tornata da Haiti, dove ha partecipato alla missione umanitaria proprio di questa fondazione. Ecco, ci spieghi, Maria Chiara Rotti, quale situazione ha trovato, qual è in questo momento il bilancio di questa gigantesca tragedia? Sì, sono da pochi giorni rientrata da Haiti, subito dopo il sisma. Sono partita con un team di urgenza di personale medico e paramedico che si è diretto immediatamente all'ospedale San Damien, l'ospedale pediatrico che la nostra fondazione ha inaugurato nel 2006 nell'isola. Ecco, perché la vostra fondazione NPH vuol dire appunto Pequeños Hermanos, no? Piccoli fratelli. Esatto. La nostra fondazione è Fondazione Francesca Rava e la seconda parte del nome è NPH, che sta per Nuestros Pequeños Hermanos, i nostri piccoli fratelli, organizzazione internazionale dedicata all'infanzia che già da 50 anni opera nei paesi dell'America centrale e latina. Ad Haiti siamo presenti da 22 anni con un ospedale pediatrico e un orfanotrofio che accoglie 700 bambini. Io sono da pochi giorni rientrata, sono rimasta molto colpita dalla sofferenza delle persone. Quello che porto da questo viaggio sicuramente sono le immagini, ma anche la motivazione per aiutare soprattutto i bambini e gli adulti amputati. Questa è una tragedia nella tragedia, probabilmente non sarebbe successo qui in Italia o nella nostra Europa un numero di amputazioni così alto dovuto a ferite infette che si sono protratte per alcuni giorni dopo. E non sono state curate, certe, quindi hanno generato cancrena, eccetera. Ecco, ma quali sono in questo momento le cose di cui c'è maggiore necessità e urgenza, insomma, per un aiuto umanitario? E in questo momento la nostra missione, come quella di altri operatori umanitari, è sicuramente continuare a inviare in modo preciso e mirato personale medico e paramedico. Mirato intendiamo quindi personale specializzato soprattutto in ortopedia e chirurgia di urgenza. E la seconda, il nostro obiettivo è di creare un centro protesi. Già con Protezione Civile e INAIL abbiamo instaurato un rapporto, una progettualità, e vogliamo creare a fianco del nostro ospedale un laboratorio di protesi che permetta di accompagnare durante la crescita questa nuova sfortunatissima generazione di mutilati. Ecco, e poi l'accoglienza è qualcosa che ci sta molto a cuore da sempre. Vogliamo ampliare la capacità della nostra casa orfanotrofio ed accogliere numerosi bambini che hanno perso la famiglia durante il sisma. Ecco, e lei come vede il futuro di questo paese dopo questo disastro? come pensa che si possa, che possa rinascere, qual è la speranza anche per queste giovani generazioni? Sì, io credo, rimando alle parole di Padre Rick, che è il sacerdote missionario e medico in prima linea che noi sosteniamo. Padre Rick è una persona straordinaria che da 20 anni lavora nelle strade di Haiti tra i più poveri dei poveri. E lui il giorno del sisma ovviamente molto colpito, ma anche a livello personale, perché tutte queste persone sono i suoi bambini e i suoi ragazzi, ci ha detto: Haiti è morta e risorgerà. Questa è veramente un'occasione per Haiti, perché nessuno di noi potrà dire che non conosce Haiti. Certo. Negli anni passati è stato molto difficile raccontare di Haiti per noi, perché spesso veniva confusa con l'esotica Tahiti, oppure con altri paesi dei Caraibi. Sì, oppure la gente andava a giocare a golf magari a pochi chilometri di distanza, ignorando questa realtà, insomma, no? Esatto. Andava a Porto Rico, insomma, a divertirsi e a prendere Porto il sole. Rico. D'ora in poi non potremo più ignorare questo, anche se saremo lì in vacanza. Ringraziamo Maria Clara Roti, buona domenica e auguri per il suo lavoro, e siamo tutti con voi. Grazie. Grazie, continuate a seguirci, grazie. A presto. E ci spostiamo in Inghilterra, su BBC News Magazine. Elizabeth Diffin si domanda perché Beirut sia ancora una metafora del caos. Cioè, quante volte abbiamo sentito dire è peggio di Beirut, riferito dalle cose più disparate, da rivolte sanguinose alla camera da letto di un teenager, a un quartiere degradato, anche se la realtà della capitale del Libano non è certo più quella di 20 o 30 anni fa, ancora nella coscienza popolare dura questa idea che questa associazione tra il nome Beirut e l'idea di disordine o di degrado civile e sociale. Ci possiamo soltanto augurare che al posto di Beirut domani non ci sia, per esempio, una città come Roma. E per oggi è tutto. Grazie a Vittoria Mussini e Gloria Guerrera in redazione e a Valerio Rocchetti in regia. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Scrivete le vostre mail a lafinestrasulcortile@radio24.it, anche segnalando casi di italiani che si fanno onore all'estero. Buona domenica a tutti.